24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Non è che Berlusconi è un fascista. Berlusconi però è una persona ricca che si è fatta i soldi, che ha un modo di proporsi, di parlare da sé, come se fosse un gerarca fascista, che anche questo piace molto. Eccolo lì, iniziamo con Andrea Camilleri la settimana. Berlusconi ragiona come un gerarca fascista. Buongiorno cari italiani, iniziamo così perché voglio mettere un po' di pepe nel piatto. Perché ragazzi, uno arriva in radio alle 5:30, legge i giornali, il dibattito sul presidenzialismo, così apre il Corriere, così apre l'Unità, così apre i giornali, il presidenzialismo. Ma chi se ne frega del presidenzialismo alla gente? Cosa importa alla gente il dibattito su come eleggere il presidente della Repubblica? Ho letto questi titoli e volevo tornare a casa e dormire fino al 2018. Una roba pazzesca, il presidenzialismo, questo è il tema che oggi è su tutti i giornali. Apriamo il nostro Parlamento. Buongiorno cari ascoltatori. Il caffè volentieri a tutti quanti. Ovviamente Nicole Minetti è sempre qui. E che dire, dobbiamo parlare del presidenzialismo? Io non lo so, cioè, la carta costa, cari direttori dei giornali. Poi non vendete più i quotidiani. E fatevi una domanda e datevi una risposta. Niente, oggi sono partito così, con il presidenzialismo. Magari è il tema su cui oggi il direttore della 7 Enrico Mentana dirà subito a Silvia Brasca di scatenarsi. Buongiorno Silvia Brasca, buongiorno. Dovrei fare 4 servizi oggi sul presidenzialismo, vero? Di la verità. Buongiorno a tutti, il servizio ovviamente sarà uno un po' lungo, sicuramente una cosa ci sarà. Insomma. Ti tocca. Ma noi siamo in attesa che ci occupino, quindi c'è Grillo che deve occupare la televisione, quindi siamo in attesa. Oh mamma mia Grillo, no, vabbè adesso tra un po' te lo facciamo sentire, anche Grillo che sistema tutti. Lo conosci il nostro bimbo alieno? Bimbo alieno, buongiorno. Buongiorno a tutti. Che sprint, Un assonnatissimo bimbo alieno. Hai letto il Corriere sul presidenzialismo? Ma poi ti spiego anche perché se ne parla, però, se vuoi. Attenzione, c'è la retroscena di bimbo alieno. Ecco, spiegami. Non ho capito perché se ne parla. Perché? Allora, il mandato iniziale di questo governo era quello di fare la riforma elettorale, come tu ben saprai. Sì. Inizia oggi la quinta settimana decisiva per la riforma. Bravissimo, infatti. Certo. Ora però tu ben sai che nel momento in cui questo governo dovesse rifare la legge elettorale è pronto a cadere, no? Quindi in qualche modo le settimane saranno ben più difficili. Inoltre questo gran chiacchierare di legge elettorale è sbagliato a prescindere, perché lo sanno tutti che del porcellum non si butta via niente. Quindi meglio virare su altri argomenti, come per esempio fumo negli occhi, è il classico fumo negli occhi. Parliamo del presidenzialismo così, per non parlare delle cose che contano. La vera notizia, non so, Silvia Brasca per esempio, la data all'1:06 di questa notte, l'ANSA. Massimiliano Allegri resta l'allenatore del Milan. Questa potrebbe essere una notizia, però i giornali erano già in stampa. Ma ecco, questa potrebbe dare un po' più di verve come rispetto al presidenzialismo. Fa più discutere sicuramente, no? Rispetto a... È anche tornato Berlusconi, perché era stato una settimana lontano. Si tocca Allegri, avrà larghe autonomie, mi sembra, da come si è messa. A me piace, io ero per tenere Allegri, di quella banda di sgarruppati di quest'anno era il meno messo peggio. Quindi oggi si tornerà a sentire parlare di Berlusconi, Rubi, cioè c'è il giorno dell'Arringa di Ghedini. Imperdibile l'Arringa di Ghedini, attenzione. Ma rimettiamo il nastro dall'inizio, cosa ne pensate di Camilleri che dice ragiona come un gerarca fascista, Silvia Brasca? È andato giù leggero in un'intervista al fattoquotidiano.it. È Camilleri, quindi sono espressioni che gli appartengono. Insomma, adesso gerarca fascista, mettiamola come la vogliamo, però una persona che in termini ristretti, secondo me, intorno al tavolo non è molto abituato a sentirsi dire no o opinioni diverse. C'è uno che ragiona un po' così. Un po' insomma, ecco, poi chiamiamolo come lo vogliamo. Però. Vabbè, insomma, gerarca fascista. Bimboliero. Bisogna sempre andare a finire lì. È anche una. Cioè, è un modo. I di Camilleri sono anche per generazione, sono quelli. Ah, certo. Bimboliero, tu hai un'idea compiuta su questa cosa del gerarca fascista? Ma meno che sulla legge elettorale, però mi torna in mente una battuta, credo fosse di Guzzanti, che nel Partito delle Libertà, dice Berlusconi, ciascuno è libero di esprimere le mie opinioni. Eh certo. Quindi poi tutto sommato. La mitica battuta di Guzzanti. Vabbè, no, ma vi rendete conto, cioè comunque, allora, tra l'altro il presidenzialismo, il tema è, perché qualcuno mi scrive, ma cosa vuol dire? Il tema è come eleggere il Presidente della Repubblica, se eleggerlo in modo diretto da parte dei cittadini. Questo è il succo del presidenzialismo. Ha detto Nida di no. Vabbè, ha detto Nida di no. Allora. Nida l'ha detto l'imitatore di sì, o Nida l'ha detto in uno scherzo della Zanzara, oppure l'ha detto no, l'ha detto ufficialmente. Allora, Silvia Brasca, ti teme che Beppe Grillo arrivi? Ma cosa temi? Che ti prenda la scrivania proprio? No, temo che avevi Crimi o Lombardi. No, Crimi lo sistemi in 4 e 48. Dai, se arriva Vito Crimi, ti metti in un corpo a corpo e lo respingi. Anche Beppe Grillo, invece, secondo me, è un po' duro. Sì, perché Beppe Grillo ha detto la TV ce la occuperemo adesso. Sì, ma vabbè, ma dai, ma sono frasi da comizio. Ha detto anche questa sui giornalisti. Sentiamo cosa ha detto, credo, anche sulla Gabanelli, su Floris. Sentiamo. Poi un giorno con i giornalisti, io non ce l'ho, no. Per l'amor di Dio, vi voglio bene, ma un giorno faremo i conti, e lo faremo i conti, no, li faremo con tutti i conti, li faremo con i Ballarò, con i Floris, che vengono con le loro televisioni davanti a casa mia e mandano in onda il mio indirizzo, il numero civico, la targa della macchina, mia moglie, i miei figli, mettendomi anche in serio pericolo la famiglia. Insomma, questo ce l'ha con Floris e poi ancora Gabanelli, la Rodotà. Rodotà. Noi siamo buoni, siamo gandiani, ma siamo gandiani che alla fine vi faremo un culo così, cari amici. Perché è questo? Perché siamo gandiani. Non volevo dire parola. Il fatto di Rodotà, della Gabanelli, è successo di tutto, ci si sono rivoltati contro e noi... Dici che battono le mani il calore! Dove siete? Che minchia fate? Li battete le mani! Loro le mani non le battono, le baciano. Le baciano, vabbè, insomma, ho tirato dentro Silvia Brasca, ho tirato dentro la Rodotà, Maria Laura Rodotà, la figlia del professor Rodotà, perché insomma c'erano i giornalisti, quindi pensavo, vabbè, ma sono frasi da comizio, cioè adesso cosa pensi, che vengano lì a fare i conti? No, io penso che, tanto, Grillo in televisione c'è, sì. E i suoi parlamentari, secondo me, hanno anche tanta voglia di andare in televisione, perché io sono in televisione, ci sono da tanti anni, li vedo, ho visto come si comportano gli ospiti in televisione, so il fascino che, ahimè, ha la televisione, e quindi io li vedo, gli piace un sacco comunque, non è vero che la televisione gli fa schifo, gli piace stare davanti alle telecamere e dire a loro, e Grillo lo sa, secondo me, e quindi vuole limitare i danni. Vuole, secondo me, poi, sai, la televisione crea dei personaggi, mm-hmm. da Polverini, insomma, è stata un po' anche una creazione di Ballarò, è vero, di Floris. E allora, secondo me, Grillo, che è molto simile a quello di cui abbiamo parlato prima per certe cose, Grillo, gerarca fascista, questa è l'accusa, l'accusa di Silvia Brasca. Giovani, allora, diamo l'account Twitter di Silvia Brasca, così verrà massacrata su Silvia Brasca 2, credo, è il tuo account Twitter. Ah, ma io posso evitare Grillini, massacratela, ha detto che Grillo si comporta come un gerarca fascista. No, però aspetta un attimo, Bimbo Alieno, tu volevi parlare di economia qui? Di noiosa economia? No, no, volevi dirci qualcosa? Perché noi stiamo parlando qui di presidenzialismo, di Beppe Grillo, capisci? Di cose più importanti. Tu temi... Sì, un po' più piccanti. Infatti... No, vabbè, ma no, qua... Però se vuoi ti parlo delle aliquote relative... delle aliquote di che cosa? No, ma insomma, qui la questione adesso di Beppe Grillo, il rapporto con la politica e col potere, è un, cioè, sono frasi da comizio, come io ritengo. Oggi Milena Gabanelli fa un'intervista a Repubblica e dice: ma sì, ma sono frasi, sì, da comizio. Ma se dovessimo prendere la lettera tutto quello che ha detto negli ultimi 18 mesi, ha detto che cambiava il paese. Vabbè, ho capito, adesso mi tocca difendere adesso, ma adesso tutti contro, ma cosa deve fare in 3 mesi? Cioè, tra l'altro, attenzione, c'è questo retroscena che racconta il Fatto Quotidiano, questa veramente è spettacolare, il Fatto Quotidiano oggi con Loris Mazzetti racconta questa vicenda. Ad aprile c'erano 13 senatori del Movimento 5 Stelle pronti a tradire, diciamo così, e supportare il governo Bersani. Contattano Sonia Alfano, che è un europarlamentare, è tutto vero, è scritto al Fatto Quotidiano. Contattano Sonia Alfano. Sonia Alfano cosa fa? Chiama Bersani. E Bersani che cosa fa? Cosa fa, secondo voi? Pensa che sia uno scherzo della zanzara e mette giù. È tutto vero, è raccontato dal Fatto Quotidiano. A questo punto Sonia Alfano, disperata, chiama Loris Mazzetti del Fatto Quotidiano e dice: guarda che mi ha messo giù pensando a uno scherzo, ma è vero, ci sono 13 del Movimento 5 Stelle pronti a supportare il governo, a che chiamano il portavoce di Bersani, gli dicono: guarda Bersani, che non è uno scherzo della zanzara, insomma. E così inizia una trama per cui forse si poteva fare un governo, ma la zanzara l'ha fatto cadere. Questo è il dato di fatto. Fatto, insomma, che vi volevo sottoporre. Una bella pagina di storia contemporanea. Esatto. Sto provando ad immaginare Cruciani a letto in questo momento che ti ascolta. No, Cruciani a quest'ora Cruciani tutto fa tranne che ascoltare. Vabbè, diciamo, 6:45. Cruciani in casa che ascolta il podcast di questa trasmissione. Sì. E stasera chiama Sonia Alfano per farsi confermare tutto. Vabbè, dai, parliamo tra poco di cose che riguardano tipo l'IMU, il finanziamento ai partiti, il lavoro. La CISL dice che perdiamo altri 132.000 posti di lavoro quest'anno, cari ascoltatori. 24 mattino. Buongiorno signor Milan. Nonostante l'influenza, voglio dire la mia perché sono troppo arrabbiata, ai politici e ai tesorieri del PD, che poverini sono preoccupati perché senza il finanziamento ai partiti non sanno come pagare i loro dipendenti. Ora dico di non prenderci più in giro, se questi dipendenti rimangono senza lavoro, li paghino vendendo le loro numerose sedi eccessive, dispendiose, da megalomani, lontano anni luce dalle vecchie sezioni frequentate da sinceri volontari e non da gente pronta ad arraffare potere e soldi. Ce l'ho con Grillo. Secondo me è un ducetto che non sa perdere. Rodotà, secondo me, ha il cervello che funziona meglio del tuo. Tu quando arriverai a 80 anni sarai fuso. Ciao, stammi bene. Milan, io vorrei sapere una cosa. Non credo di aver capito male, ma Grasso, quando è diventato presidente del Senato, non disse che il Senato avrebbe dovuto lavorare 5 giorni alla settimana, invece tranquillamente finiscono il giovedì e si rivedono lunedì pomeriggio. Ma adesso la cosa che è bella è che anche la Boldrini, anche la Camera, ma io non riesco a capire, ma perché si rimangiano sempre le promesse che fanno? Partono tutti in quarta, poi dopo, proprio vero, scopa nuova, scopa bene, si dice a Roma. Ricordiamoci che tutti i politici hanno paura di abbassare le braghe perché hanno paura di prendersela là. Noi, comuni operai, che abbiamo sulle braghe, ce la prendiamo sempre nel gnao. Dobbiamo procurarci le mutande di ferro o dobbiamo fare una rivolta contro la politica perché non ce la facciamo più? La dovete smettere di prenderci per il culo. Smettetela di mangiare alle nostre spalle. Altrimenti veramente ci mettiamo a cagare pallottole. Vabbè, siamo con Bimbo Alieno, siamo con Silvia Brasca del TG della 7. Hai sentito Silvia quello che ha detto? È un ducetto Grillo, t'ha copiato. Vabbè, io lo chiamo Kim Jong Grill, quindi insomma, questo è. Allora, questa del finanziamento ai partiti, tu Bimbo Alieno del 2 per 1000, l'hai capita? L'hai capita la truffa che ci stanno, la nuova truffa che ci stanno propinando? Cioè, in pratica, se uno non opta al 2 per 1000, il 2 per 1000 comunque va diviso tra i partiti. Ma io dico, ma non lo so. Vabbè, è un po' come l'8 per 1000, che se non indichi nulla. Ma ho capito, ma cosa vuol dire un po' come... Oggi Angelo Panebianco sul Corriere fa l'editoriale a dire... Penso che è la stessa logica. Sì, certo, è la stessa logica truffaldina, è chiaro. Oggi Angelo Panebianco scrive sul Corriere, ma sì, è vero che in tutta Europa c'è il finanziamento ai partiti, però dimentichiamo di dire che in Italia noi abbiamo fatto un uso particolarmente sciagurato. E questa è la differenza. Cioè, se ci fosse un sistema... È un problema di misura, credo. Ma chiaro. Non del concetto in assoluto, anzi. Ma infatti nessuno, cioè quelli che vogliono adesso, come me, mettere a zero, a dieta totale i partiti, è perché non ne possono più delle truffe che hanno, a questo hanno assistito negli ultimi 20 anni. Cioè, no o no, Silvia, mi sbaglio. Io, se ci fosse un sistema pacato, tranquillo, trasparente, io gli darei dei soldi pubblici ai partiti. Altro che intanto anche questa nuova proposta di legge è molto farraginosa, anche confrontandola con quelle degli altri paesi. E poi quello che noi dimentichiamo è che noi abbiamo detto i soldi ai partiti, ma poi è venuto fuori e a sorpresa, perché quasi non lo sapevamo, che come abbiamo visto nelle regioni quanto prendono i gruppi consigliari, ad esempio. Questa era una cosa che c'era sfuggita. C'era assolutamente sfuggita. Quando è venuta fuori lo scandalo del Lazio, ci siamo accorti che ogni partito riceveva dei soldi per far funzionare i gruppi consigliari alle regioni. C'era no, ma è chiaro. E lì poi era una prateria, abbiamo visto che hanno fatto di tutto. Comunque anche questa legge è molto farraginosa. Ma sì, no, noi ne parleremo alle 8:15. Avrò i due oppositamente chiamati i tesorieri dei due partiti, Misiani del PD e Bianconi del PDL, così li facciamo un po', come dire, sottoporre a che cosa? Un po' di critiche dei nostri ascoltatori, mettiamo così. Però vi devo far ascoltare questo: Susanna Camusso, contestata, leader della CGIL, e magari Bimbo Alieno ci aiuta a capire il perché. Susanna Camusso, ieri o l'altro ieri? Appena stato liberato, è anche la prima persona. C'è sempre qualcuno che ha un'idea della democrazia un po' strana. Insomma, Susanna Camusso parlava, contestata, c'è il tema degli accordi con Confindustria. Bimbo Alieno, che succede sul mercato del lavoro oggi, quando io leggo la CISL dire ancora rischiamo di perdere altri 123.000 posti? Sì, ma addirittura la CISL è ottimista rispetto a quello che ha detto venerdì la stessa CGIL della Camusso, cioè che per ritornare alla soglia di occupazione che avevamo nel 2007, credo, prima della crisi, dovremmo aspettare altri 60 anni, sì, ma messa così sembra una tragedia. Io non voglio sperare che sia così, ma è davvero plausibile. 60 anni vuol dire tre generazioni. No, quando si dice che la luce in fondo al tunnel vuol dire, sì, che siamo dentro il tunnel, ma un tunnel lungo 60 anni, insomma. Ah, è chiaro. Vabbè, allora credo che la CGIL dovrebbe farci qualche domanda innanzitutto sul suo operato in questi anni, in tutta l'attività sindacale, no? Perché sì, se la situazione occupazionale è questa, credo che qualche responsabilità da parte di chi forse ha prestato troppa attenzione ai suoi iscritti, e cioè per la maggior parte pensionati e lavoratori. Diciamolo però, perché insomma... Diciamo, siamo qua, mica c'è problema. È solo che qua io... Poi naturalmente c'è la difficoltà di agire con una base che nel momento in cui tu fai un accordo con Confindustria ti contesta. È chiaro, in maniera anche così plateale, lo sciopero è il diritto di tutti. Va bene, io qua mi devo fermare, vi ringrazio. Bimbo Alieno, lo seguite anche così su Twitter. Silvia Brasca 2, ricordatevi, Grillini ha detto che è un ducetto, Beppe Grillo, e quindi è un gerarca fascista. Questo è l'account Twitter di Silvia Brasca del TG della 7, oggi obbligata a fare 8 servizi sul presidenzialismo dal direttore Mentana. Adesso lo chiamiamo e imponiamo questo. Grazie per essere stati con noi, ci ritroviamo dopo il GR delle 7 per leggere i giornali. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino, l'Italia si desta. Siamo qui, cari ascoltatori, alle 7:21 minuti, pronti a leggere i giornali con voi e per voi. E vi ricordo che oggi parleremo di uno dei temi più caldi e più cari, visto che il premier Enrico Letta venerdì ha scritto in un tweet abolito il finanziamento pubblico ai partiti. E questo è anche il primo articolo del disegno di legge, abolito il finanziamento pubblico ai partiti, che è stato licenziato salvo intese venerdì in Consiglio dei Ministri. Ma è davvero così? Ma è davvero così, cari italiani? È davvero così? Ma dubito fortemente, almeno a leggere i giornali nei giorni successivi. Mi sembra che sia un po' quella che qualcuno in maniera dura ha definito una legge truffa, però staremo a vedere. Noi abbiamo invitato i due tesorieri dei partiti più importanti, PD e PDL, ospiti qui, Antonio Misiani del PD e Giovanni Bianconi del Popolo e Maurizio Bianconi, scusate, del Popolo della Libertà, saranno nostri ospiti dalle 8:15, coloro che hanno anche detto nei giorni scorsi: attenzione, perché rischiamo di licenziare un po' di dipendenti. Va bene, parleremo anche con il vostro contributo, le vostre telefonate. Ora andiamo a tuffarci nei giornali, che oggi ci propongono dei temi per alcune aperture che davvero mi hanno fatto sobbalzare. Andiamo a scoprirle. In questo lunedì 3 giugno il Sole 24 Ore apre sull'IMU a caccia dei primi 10 miliardi. Pensate, questa è la cifra, perché è vero che non si pagherà l'IMU sulla prima casa per il momento, ma il 17 giugno molti pagheranno l'acconto IMU, no? E in totale saranno 10 miliardi le seconde case e tutti gli altri. 10 miliardi che entreranno il 17 giugno nelle casse di comuni e Stato. Oh, cosa mi ha davvero colpito negativamente oggi sui giornali. Tutti i giornali aprono su un tema, alcuni giornali aprono su un tema che davvero posso immaginare voi nel vostro abitacolo della macchina non pensate a nient'altro che a questo: il tema del presidenzialismo, cioè come eleggere il capo dello Stato. Ebbene sì, Corriere della Sera, la partita del presidenzialismo. Repubblica, Napolitano, il governo a termine, Alfano rilancia il presidenzialismo, il PD si divide. Il Messaggero, riforme, governo a termine, Napolitano, larghe intese, scelta eccezionale, ma sia il presidenzialismo, da sinistra critiche a Letta. L'Unità, il presidenzialismo che rompe. È finita qui fortunatamente. Io ripeto, ho detto anche prima alle 6:30, ho letto questi titoli di giornale, volevo tornare a dormire e svegliarmi nel 2018. Comunque, La Stampa invece, c'è un'intervista al ministro dello sviluppo economico Zanonato, sgravi a chi assume giovani, questo è il titolo di prima pagina. Il Giornale invece ha un'intervista al vice premier Alfano, il piano shock per l'economia. Per il secolo XIX l'apertura sull'Europa va sott'acqua, morti e paura. Mentre il Fatto Quotidiano, l'edizione del lunedì, confessione di uno strozzino. Sapete che il Fatto Quotidiano, l'edizione del lunedì, ha più dei reportage e degli approfondimenti su alcuni temi. Ma allora, visto che ne parleremo alle 8:15 sul tema del finanziamento pubblico ai partiti, oggi i giornali raccontano appunto che incombe una minaccia di referendum dei radicali, che hanno un ministro, Emma Bonino. Ci sono appunto le salvo intese dell'approvazione del disegno di legge, che quindi è ancora tutto da rivedere. Pare che vengano messi dei tetti per i contributi privati, un tetto massimo di contributi privati. Al di là di questo ci sono due editoriali che vi voglio sottoporre, due commenti. Sferzante quello di Luca Ricolfi in prima pagina della Stampa. Scrive Luca Ricolfi: non importa la premessa, quello che penso io, non è importante, ma quello che vorrei dire con forza è che ho trovato offensiva l'impostazione del disegno di legge proposto dal governo. Spiego perché. Il primo articolo del disegno di legge inizia così: è abolito il finanziamento pubblico ai partiti. Nella lingua italiana la parola abolito, in assenza di ulteriori qualificazioni, significa soppresso, tolto, eliminato, azzerato. Inoltre, per il cittadino italiano medio, la parola finanziamento pubblico ai partiti designa l'insieme di risorse pubbliche che affluiscono ai partiti: rimborsi elettorali, finanziamento dei gruppi politici a livello centrale e locale, agevolazioni fiscali e tariffarie, contributi alla stampa di partito. Dunque il cittadino pensa: i partiti non avranno più soldi pubblici. Leggendo il disegno di legge invece si scopre che non è così. Nel 2013 non cambia nulla. Nel 2014, se il disegno di legge sarà approvato entro quest'anno, i rimborsi elettorali attuali cominceranno a essere limati un po' e spariranno del tutto solo nel 2017. In compenso, fin dal 2014 scatteranno agevolazioni fiscali alle donazioni private, finanziamenti ai partiti attraverso un meccanismo di destinazione volontaria del 2 per 1000. Non solo, lo Stato assicurerà alle forze politiche disponibilità di locali e spazi televisivi. Insomma, ci si rende conto di almeno quattro cose, scrive Ricolfi. Primo, il disegno di legge non tocca né il finanziamento dei gruppi parlamentari né dei gruppi dei consigli regionali. Secondo, lo Stato continuerà a sostenere costi per il finanziamento ai partiti. Terzo, nel triennio transitorio nulla assicura che la decurtazione dei rimborsi elettorali non venga compensata dal meccanismo del 2 per 1000. Quarto, anche a regime nulla esclude che il finanziamento possa essere uguale o superiore a quello previsto dalla legislazione attuale. Ecco perché, dicevo, ho trovato offensivo l'articolo 1 che recita: è abolito il finanziamento pubblico ai partiti. Perciò, cari politici, conclude Ricolfi, una sola preghiera: quando ci aumentate le tasse vi rifugiate codardamente dietro il verbo rimodulare. Ora che state effettivamente rimodulando il finanziamento dei partiti, abbiamo a te almeno il coraggio di non usare il verbo abolire, perché abolire vuol dire abolire, abolire, abolire, direbbe Gertrude Stein, e se voi dite abolire quando non state abolendo affatto, noi ci sentiamo presi in giro. Questo Luca Ricolfi, ma anche Panebianco, Angelo Panebianco, in prima pagina del Corriere della Sera, il titolo è Il salario della politica, l'editoriale è questo: quando si dice che in tutta Europa esistono finanziamenti pubblici ai partiti, si dice solo a mezza verità. Bisogna aggiungere che noi ne abbiamo fatto un uso particolarmente sciagurato e che invece in quasi tutti quei paesi il finanziamento pubblico si accompagna a un sistema ben disciplinato e legittimato di finanziamenti volontari privati. Non avendo mai avuto un rapporto laico, pragmatico, non ideologico col ruolo politico del denaro, siamo riusciti a fare del finanziamento della politica un mezzo di delegittimazione della democrazia. Così Panebianco nell'esordio del suo editoriale, che poi prosegue, insomma, due dei commenti sferzanti che parlano, in caso di Ricolfi, di presa in giro. Vabbè, vi voglio lasciare prima della pubblicità con questa notizia che trovate sulla prima pagina del Corriere della Sera, Economia, l'inserto d'Economia firma Sergio Rizzo. Mani sul volante, ben strette, cari ascoltatori, le spese come gli esami non finiscono mai. Sentite cosa succede il 21 marzo scorso con una firma della conferenza Stato-Città presso la Presidenza del Consiglio. Sono stati stanziati 10 milioni di euro in favore di ANCI, Associazione Comuni e Unione delle Province Italiane. Non dovevano sparire le province? Ah, vabbè. Le Unione delle Province Italiane per un programma di aggiornamento dei segretari comunali e provinciali. Bene. 10 milioni di euro per aggiornamento segretari comunali e provinciali. Con un piccolo particolare, scrive Sergio Rizzo, lo Stato, il governo italiano, ha già una propria scuola per gli amministratori locali. E inoltre, scrive Sergio Rizzo, lo stesso giorno, il giorno dopo praticamente, l'allora ministro Patroni Griffi aveva firmato un provvedimento per mettere finalmente tutte le scuole presenti, perché è un coacervo, è sotto un unico cappello, quello della Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Cioè, nello stesso giorno si stanziano 10 milioni per formare segretari comunali e viene varata una scuola unica per risparmiare sulle stesse voci. E scrive Sergio Rizzo, peraltro, le due firme dei ministri allora sono del ministro Cancellieri, che attualmente ancora nel governo Letta, e del ministro Patroni Griffi, che è ancora nel governo Letta, ora è sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Insomma, nello stesso giorno si stanziano 10 milioni da dare ad ANCI e province, aperta parentesi, inizia oggi la quinta settimana decisiva per l'abolizione delle province, chiusa parentesi, e intanto si formano le scuole per risparmiare sulla formazione di segretari di provincia e di comuni. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Siamo alle 7:37 minuti, siamo nuovamente qui a leggere i giornali. Come detto, cari ascoltatori, se oggi leggete le pagine della politica italiana vi strappate i capelli. Se non avete i capelli non lo so cosa fate, perché il tema che domina le prime pagine di alcuni giornali è il presidenzialismo, un tema principe, un tema una fissazione con la quale vi svegliate la mattina, magari se il vostro posto di lavoro è un po' precario, se non sapete come dare un futuro ai vostri figli. Il presidenzialismo, cioè come eleggere il capo dello Stato. Dopo che c'è stata un'apertura di Letta, subito Alfano ci si è buttato. Tra l'altro dicendo il giorno prima, si diceva con la riforma elettorale non mangiano gli italiani, mentre col il dibattito sul presidenzialismo delle cene pantagrueliche, immagino, no? Allora, comunque il tema è quello del presidenzialismo sui giornali, pagina 2-3 del Corriere, pagina 4. Alfano spinge ma la svolta spacca la sinistra, questo sul tema del presidenzialismo, e c'è anche una sorta di colloquio col capo dello Stato che Marzio Breda fa sul Corriere della Sera, pagina 3. Io naturalmente non dirò nulla, rimane neutrale Napolitano, né stasera né mai, ieri era il 2 giugno ovviamente. Sul contenuto delle riforme resterò assolutamente neutrale, mi volete far dire qualcosa che non ho intenzione di dire, questa questione, cioè le riforme, è all'ordine del giorno alla commissione dei membri di Camera e Senato che si sta costituendo ed è deputata a entrare in merito, sarà poi discussa nel comitato di esperti, soltanto allora si entrerà nel merito, e quanto ai pareri dell'uno o dell'altro, ognuno ha le sue convinzioni. Insomma, un Napolitano che neanche a lui interessa entrare in questo dibattito. Ha ribadito il Porcellum, bisogna uscire da questo nodo, quindi la riforma elettorale, aperta parentesi, inizia oggi la quinta settimana decisiva per la riforma elettorale, chiusa parentesi, e un Napolitano che ha detto l'orizzonte indicato da Letta, l'orizzonte di 18 mesi per fare le riforme, è un tempo più che appropriato, ha detto Napolitano, perché il processo è complesso e si tratta di tenere il ritmo, che anche qui si può dire, 18 mesi non sono neanche pochissimi. Comunque i dubbi del capo dello Stato sulla svolta presidenzialista, anche pagina 3 del Messaggero. Il retroscena di Repubblica, Letta conferma l'asse con il Colle, io non voglio tirare a campare, dunque l'orizzonte pare essere quello proprio dei 18 mesi, Goffredo De Marchis racconta su Repubblica, io non tiro a campare, l'ho sempre detto, l'eccezionalità della situazione vale esattamente per il tempo indicato da Napolitano, e dunque il termine 18 mesi coincidono con la presidenza del semestre europeo dell'Italia che comincia il 1 luglio del prossimo anno e con il percorso che lo stesso governo si è dato per le riforme istituzionali. Dunque, se volete, tuffatevi in questo dibattito molto pregnante che cambierà ovviamente la vostra situazione concreta. Subito il conflitto di interessi per parlare di semi-presidenzialismo. Ah, dunque non siamo al presidenzialismo, ma per Anna Finocchiaro, intervistata da Ninni Andriolo sull'Unità, pagina 5, un'intera pagina. Il dibattito è tutto invece sul semi-presidenzialismo rispetto al presidenzialismo puro. Mentre il fronte del 9 è già nel PD, per esempio i renziani contro questo dibattito sul presidenzialismo, un'intera pagina, pagina 4 del Corriere della Sera. Questo è il tema politico più importante del giorno. Poi, se volete, c'è la solita barzelletta della riforma elettorale. Ho letto questi due titoli. Primo, intervista al ministro Quagliariello sulla Stampa, pagina 3, Amedeo La Mattina. Bisogna accelerare la vera riforma elettorale. E lo dice come imperativo a noi, insomma, bisogna accelerare, senza accordo su quella provvisoria, meglio farla subito e cambiare la forma di governo. Dunque, Amedeo La Mattina intervista al ministro Quagliariello, esploratore del PDL sulle riforme, che invita a accelerare la vera riforma elettorale. Dall'altra parte, sul Messaggero, un'intera pagina di intervista che Mario Aiello fa al ministro per i rapporti con il Parlamento, Dario Franceschini, pagina 5 del Messaggero. Niente scambi sulle riforme, fare subito la legge elettorale, subito, così l'imperativo di Dario Franceschini. Partiamo da ciò su cui siamo d'accordo, il superamento del Porcellum spetta al Parlamento, semipresidenzialismo o cancellierato solo alla fine del percorso. Ecco, dunque oggi sui giornali potrete fare una gincana tra presidenzialismo, semipresidenzialismo o cancellierato. cari ascoltatori, questi sono i temi, il tema politico sviluppato su queste tre linee che trovate dalle interviste dei giornali. Io lo dico, ma davvero senza polemica, poi i giornali vendono sempre meno copie. L'altro dibattito che riguarda il Movimento 5 Stelle è l'altra notizia politica di Beppe Grillo, che ancora nei suoi comizi, insomma, le spara grosse, la TV nel mirino, noi la occuperemo la TV. Ci sono le prime interviste, ieri avete sentito, l'abbiamo fatto sentire anche alle 6:30, faremo i conti prima o poi con i giornalisti, Floris di Ballarò, la Gabanelli che risponde in un'intervista a Repubblica, pagina 5, dice: io sono abituata agli insulti, l'ex comico fa comizi, dica pure quello che vuole. Sta di fatto che le due notizie forse più interessanti sul retroscena del Movimento 5 Stelle, la prima la scrive Repubblica con Annalisa Cuzzocrea, pare che giovedì a Roma scenda Beppe Grillo e scrive Repubblica: blitz a Roma di Grillo e Casaleggio, pronta l'espulsione dei dissidenti. Pare che abbia detto questo Beppe Grillo: sì, avrete delle sorprese, sta settimana vado in Parlamento e li prendo a calci nel culo. Questo riferito ai cosiddetti dissidenti all'interno del Movimento 5 Stelle. Ma la notizia forse più incredibile, che riguarda anche Radio 24 e i nostri amici della Zanzara, la pubblica Il Fatto Quotidiano. Oggi Il Fatto Quotidiano scrive a pagina 2 un lungo retroscena, firma Loris Mazzetti, che è un dirigente della RAI e che è ben informato, perché racconta: sono stato protagonista di questa vicenda. Udite qui, Bersani poteva essere salvato dal movimento. Loris Mazzetti, pagina 2 del Fatto Quotidiano, racconta un retroscena inedito avvenuto ad aprile, quando ci sono 13 senatori del Movimento 5 Stelle pronti a dare la fiducia a Bersani. E allora chi è che si è mosso in questo senso? Racconta Mazzetti in questa ricostruzione l'eurodeputata Sonia Alfano, che a un certo punto cosa fa? Contatta Bersani per dire questa cosa: guarda che ci sono 13 nel Movimento 5 Stelle pronti a darti la fiducia. Che cosa fa Bersani? Pensa che sia uno scherzo della Zanzara. Davvero, giuro, pensa che sia uno scherzo della Zanzara e mette giù a Sonia Alfano. Al che Sonia Alfano chiama Loris Mazzetti, il giornalista del Fatto che racconta tutto questo, e dice: guarda che ho chiamato Bersani, ma lui crede, voglio dargli una notizia, ma lui crede che sia uno scherzo della Zanzara, invece è tutto vero. Al che Loris Mazzetti chiama il portavoce di Bersani, Stefano Di Traglia, dice: guarda che la telefonata di Sonia Alfano è tutta vera. Al che Di Traglia chiama Bersani: guarda che la telefonata di Sonia Alfano è tutta vera, non è uno scherzo della Zanzara. Al che Bersani manda Miguel Gotor, suo senatore onorevole, molto collaboratore, molto vicino, per capire e sondare questa notizia. E Miguel Gotor fa un'intervista al Fatto Quotidiano e dice: sì, è vero, mi dissero di 13 senatori pronti a seguirci. Tu pensa te se il governo Bersani non è nato perché pensava che fosse uno scherzo della Zanzara. La telefonata di Sonia Alfano. Ci sta anche questo nell'impazzimento della politica attuale. Allora, ci sono alcune cifre davvero impressionanti oggi sui giornali riguardo al tema lavoro, il tema occupazione. Le citano Repubblica e Il Fatto Quotidiano, per esempio. Negli ultimi 5 anni, sapete italiani quanti posti di lavoro si sono persi? 674.000 posti in 5 anni. E l'allarme della CISL è che quest'anno c'è il rischio che si perdano altri 123.000 posti di lavoro. Davvero cifre impressionanti. Ovviamente si guarda soprattutto ai giovani, lo fa anche in questa intervista il ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato, intervistato dalla Stampa, un'intera pagina, pagina 7. Zanonato: sulle nuove assunzioni le aziende non pagheranno tasse, questo è l'annuncio, dopo aver detto quello che abbiamo fatto di positivo, l'IMU, la CIG in deroga, eccetera. Scrive e dice Zanonato: quello che possiamo fare, le prossime due misure le annuncio. Primo, il potenziamento del fondo di garanzia, che vuol dire mettere a disposizione più credito per le imprese. Secondo, vantaggi fiscali per le aziende che assumono in modo permanente i giovani nelle loro aziende. Una misura che serve a dare maggiore certezza a tanti ragazzi precari o senza lavoro. Abbiamo 2,5 milioni, questa cifra gira da qualche giorno, una cifra che fa venire i brividi, dice lo stesso ministro, 2,5 milioni di giovani che non lavorano e non studiano. Ci sarà dunque un'esenzione fiscale di tasse e contributi per l'intero monte salari di nuovi assunti a tempo indeterminato. La durata dipenderà dalle risorse disponibili. Questo parla per quel che riguarda l'economia. Di economia parla anche Alfano in un'intervista al Giornale. Il vice premier viene intervistato a pagina 3. Subito il decreto shock sull'economia per superare la crisi. È un decreto shock che più volte viene annunciato da Silvio Berlusconi. Intanto dice Alfano sull'IMU non si torna indietro. Il 30 agosto è la data cristallizzata nella Gazzetta Ufficiale, l'impegno consolidato del governo per rifare tutto, diciamo rivedere la ristrutturazione di tutta l'imposta e quindi cancellarla. Sull'IMU non si può tornare indietro, riparte così Alfano e dice Berlusconi parla di un decreto shock per l'economia prima dell'estate, si farà. È chiaro, risponde Alfano, che la nostra proposta sul fronte economico non si risolve con l'IMU. Intanto serve arrivare a zero tasse per chi assume giovani disoccupati. Questo, come ha detto Zanonato. Poi bisogna liberare l'impresa dalla camicia di forza della burocrazia. Serve un piano strong, molto duro anche nel tempo, di semplificazioni che permettano a chi ha soldi di investire senza inciampare in lacci e lacciuoli della burocrazia. IMU, detassazione, sburocratizzazione sono il modo più efficace per mettere benzina nel motore della nostra economia. Vabbè, però diciamo non entra nei dettagli, ma prosegue su queste linee del decreto economico shock o strong. Intanto arrivano soldi nelle casse dello Stato, perché come racconta il Sole 24 Ore, 17 giugno si paga la scadenza dell'IMU. Chi la deve pagare, quindi esentate per il momento le prime case, ma gli altri no, e allora il gettito sfiorerà i 10 miliardi di euro, 10 miliardi che entreranno nelle casse di Stato e Comuni. Tutti i dettagli sono a pagina 2, la scadenza del 17 giugno. L'acconto IMU ha un obiettivo preciso, 10 miliardi di euro che lo Stato e i Comuni punta ad incassare nelle prossime due settimane da qui al 17 giugno. Questa è la cifra, negozi, capannoni, tutti i dettagli di chi e come si deve pagare sul Sole 24 Ore. Voglio andare all'estero per raccontare, come fanno i giornali, quello che sta succedendo in Turchia. Il reportage forse più dettagliato e più interessante è quello di Marco Ansaldo, inviato di Repubblica, ma tutti i giornali hanno i loro inviati che raccontano in prima pagina. Marco Ansaldo racconta il pugno di Erdogan, 1700 arresti per il momento. Scrive Repubblica, muore un albero, si sveglia una nazione. La massima di Nazım Hikmet, il detto del massimo poeta turco inviso al potere, morto lontano dalla patria, si legge chiaro sui cartelli innalzati a piazza Taksim. E si adatta bene qui, davanti al Gezi Park, dove 600 alberi da sacrificare per far posto a un grande centro commerciale appaiono per ora al sicuro. Che cos'è questa rivolta? Beh, Tayyip, noi siamo qui, tu dove sei? Così scandiscono a migliaia al ritmo di un tamburo che attraversa lo slargo dove si erge il movimento Ataturk, il fondatore della Turchia moderna. Tayyip Erdogan, il primo ministro che ha alzato le tasse su tabacco alcolici, vuole vietare i baci in pubblico, le gambe delle modelle nelle pubblicità, accusato di pensare troppo agli affari e progetti faraonici, da 7 giorni e 7 notti è il bersaglio della piazza. Dimettiti, fascista, vattene in Arabia Saudita, basta con la religione al potere. È una massa adesso padrona della piazza, con una protesta che si esprime in mille forme. Sono arrivati anche qui dalla parte anatolica, battendo i cucchiai contro le pentole, appendendo asciugamani bianchi alle finestre, accendendo e spegnendo la luce nelle case in segno di perenne vigilanza. Insomma, ce l'hanno contro quello che dicono, ha ormai imboccato una strada di agenda islamica. Tanto che sempre su Repubblica c'è un'analisi di Gilles Kepel, che racconta proprio come ci saranno novità e come questa è una grande novità nella cosiddetta primavera di Istanbul, che mette in crisi il mondo arabo. Scrive Gilles Kepel in prima pagina di Repubblica: le manifestazioni a Istanbul, Smirne, Ankara sono il primo esempio di una massiccia disobbedienza civile nei confronti del potere di Erdogan, anche nei confronti del partito islamico che dirige il paese da più di 10 anni. Insomma, una sorta di addio già al modello turco. trovate, sono gli articoli più interessanti sicuramente dei giornali di oggi. Vabbè, la Gazzetta, Milan, Allegri, sì, la notizia di 1:06 di questa notte, Allegri rimane allenatore del Milan, con mia grandissima soddisfazione, uno dei migliori della truppa sgarruppata rossonera dello scorso anno, ha compiuto il miracolo di portarci al terzo posto, speriamo che qualcuno lo voglia cacciare dopo il primo pareggio che ci sarà in un'amichevole agostana. Allegri rimane al Milan, notizia della notte, ma la Gazzetta la mette Milan Allegri, sì, d'altronde era abbastanza chiaro. Evviva, evviva, giornale radio, poi parleremo di finanziamento pubblico ai partiti. 24 mattino. Eccoci alle 8:18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, oggi parliamo di finanziamento pubblico ai partiti e io sia chiaro, ho una posizione molto semplice che esprimo spesso con questo esempio. Prendete un bel compasso come quelli che si usavano quando si andava alle medie. Fate un bel cerchio come Giotto, perfetto, ecco la cifra che ne viene fuori, questo è quello che io darei e destinerei ai nostri partiti in Italia, un bello zero tondo tondo di giottiana memoria. Non è che sia io un sovversivo, per carità, o non è che non sappia che in molti paesi europei e in molte democrazie occidentali si danno qualche forma di finanziamento pubblico ai partiti, ma come scrive oggi Angelo Panebianco sul Corriere della Sera, certo, noi diciamo che in Europa si danno i finanziamenti pubblici ai partiti, ma questa è una mezza verità quando lo diciamo, perché bisognerebbe aggiungere che noi ne abbiamo fatto un uso particolarmente sciagurato, e allora questo porta forse anche a un po' di risentimento, lo ammetto. Oppure zero soldi ai partiti, non perché sia un anarchico che non capisce che la politica costa, ma perché, come scrive oggi Luca Ricolfi, altro commentatore su questo tema, sapete qual è il primo articolo del disegno di legge che hanno approvato il Consiglio dei Ministri? Il primo articolo recita così: è abolito il finanziamento pubblico dei partiti. E allora scrive Luca Ricolfi, nella lingua italiana la parola abolito, cari politici, ha un significato unico: soppresso, tolto, eliminato, azzerato. Se invece rientra in altre forme, come si capisce nel disegno di legge, allora, scrive Ricolfi, questa è una presa in giro, perché cari politici, che quando aumentate le tasse dite rimodulare, ora che state rimodulando il finanziamento pubblico ai partiti, abbiate il coraggio di non usare il verbo abolire, altrimenti appunto ci sentiamo presi in giro. Oggi Luca Ricolfi sulla Stampa. Comunque abbiamo due ospiti che la pensano all'opposto mio, ma poi io non conto, insomma anche il parere dei vostri dei nostri ascoltatori ci interessa. 800240024 sono i tesorieri dei due partiti che più importanti al governo, vale a dire il Partito Democratico, c'è cioè l'onorevole Antonio Misiani, buongiorno e ben ritrovato Misiani. Buongiorno, buongiorno. Eccoci. A tutti. Così come l'onorevole Maurizio Bianconi, buongiorno e ben ritrovato anche a lei del Popolo della Libertà. Buongiorno, buongiorno a lei, dottore. Eccoci. L'ho fatta arrabbiare con Giotto Bianconi? No. Ogni opinione è legittima, lei ha questa opinione e io ne ho un'altra, mentre sono d'accordissimo con quello che ha detto Ricolfi. Cioè che è una presa in, che la presa in giro c'è stata. Questo DDL poteva essere, ce lo potevano risparmiare, ecco. Addirittura. No, ma capisce, ma io dico zero perché c'è un po' il risentimento, non è che appunto sono cieco e non capisco che la politica costa, o come dice Panebianco, in Europa tutti hanno finanziamento ai partiti. A me, dottore, dell'Europa non mi importa niente, non mi importa niente per altri versi, e si figuri se richiamo l'Europa quando io sono uno di quelli che dice che di questa Europa se ne può fare a meno. Mentre mi preoccupa è la sua parola risentimento, come risentimento non si governano gli stati. Lei ha ragione, dal troppo a niente è un salto troppo grande. Dal troppo a niente qualcuno è un salto troppo grande. In politica, dottore, paga, qualcuno i soldi ce li mette. Se vi aspettate che ce li mettano i cittadini con quelle forme astruse che ha pensato il mio amico Quagliariello, pensate male, cioè, o meglio due... che ce lo metta lo Stato che non ce li mettano in altro modo. Diciamo così che la ricerca non tanto del finanziamento della democrazia, sì, ma del male minore. Cioè meglio che lo metta, che diciamolo così, che chiuse le case chiuse e penso di aver abolito la Costituzione. Certo, cioè, mettiamola così, meglio che lo metta lo Stato piuttosto che i partiti vadano a cercarla in maniera losca in qualche altro modo. Perché tanto ricercano i soldi, perché con la politica ha bisogno di soldi. E vabbè, allora, però se uno li cerca non solo farceli mettere in misura adeguata, ma farceli mettere con tanti controlli e soprattutto colpire senza pietà chi ce li mette in malo modo. Anche perché se uno li cerca in maniera losca ci sarebbe una legge che vieta anche questo. Anche se non è in maniera losca, perché stando fuori si semplifica molto, dottore, non è losca, ma se io faccio una campagna elettorale e viene un signore e mi dice guarda, lo vuole un milione di euro da me, sì. Io lo piglio, ma e firmo una cambiale. Ah certo, si consegna in mano a questa. Però aspetta, aspetta, forza, che andiamo, sennò, andiamo molto oltre, perché tanto i temi di cui parlare sono tanti. C'è appunto il 2 per 1000, c'è le donazioni private, c'è il tetto alle donazioni private. Lei però ha già un giudizio politico e c'è su questo disegno di legge, ce lo potevano risparmiare la DASO. Non so, vorrei sapere da Antonio Misiani un giudizio complessivo, poi magari entriamo nelle questioni tecniche del DDL. Anche lei, Misiani, è così duro verso questa ipotesi di legge? No, io ho un'idea diversa. Io credo che quando metà dei cittadini non va a votare e un quarto di quelli che vanno a votare votano movimenti antisistema, la politica debba capire il campanello d'allarme che viene dai cittadini. Io credo che una riforma era necessaria, è necessaria, poi bisogna entrare nel merito, costruire una riforma con criterio, con intelligenza, guardando a quanto accade nelle altre democrazie e non cedendo alla demagogia, al populismo, ma una riforma va fatta, perché c'è una frattura enorme tra i cittadini, i partiti e le istituzioni che attraversa in pieno il tema del rapporto della politica con i soldi. Però mi scusi, dire come nel primo articolo del disegno di legge è abolito il finanziamento pubblico ai partiti, è vero che è il modo di dire è abolito, peraltro progressivamente verrà abolito quel meccanismo che conoscete lì, ma se uno dice una frase del genere, Misiani, cosa capisce il cittadino? Come scrive Ricolfi, capisce che la politica prenderà zero dai cittadini, e invece così non è, è una presa in giro? Ma guardi, la politica non prende zero dai cittadini in nessun ordinamento democratico, nemmeno negli Stati Uniti. Laddove non ci sono finanziamenti diretti, ci sono comunque agevolazioni fiscali, lo Stato mette delle risorse, non si disinteressa del modo in cui i partiti vengono finanziati, cerca di orientare le scelte dei cittadini. E questo è il punto. Io magari avrei scritto e abolito il finanziamento diretto, non ci saranno soldi che arrivano nelle casse dei partiti senza un elemento di scelta agevolata da parte dei cittadini. Però la scelta, iniziamo al il primo punto è quello del cosiddetto 2 per 1000, cioè si vuole introdurre questa idea di destinare liberamente il 2 per 1000 da parte dei cittadini. Però c'è un grande punto di domanda, un grandissimo punto di domanda, che è questo, Bianconi, al di là del meccanismo, il 2 per 1000 che i cittadini non vogliono destinare ai partiti andrebbe comunque distribuito come si capisce da questo disegno di legge, il cosiddetto inoptato, andrebbe comunque redistribuito ai partiti? Questa sarebbe una grande truffa. Io quando ero consigliere regionale indussi la regione Toscana, che lo feci, naturalmente poi non ci prese nessuno in considerazione, ad esercitare la sua facoltà propositiva sulle proposte di legge per abolire lo stesso meccanismo che c'è per le chiese. Cioè, se in Italia siamo io, lei e Misiani, io e lei, si dice che bisogna darlo alla Chiesa Cattolica, e Misiani dice a quella Valdese, non è che danno i nostri soldi, danno tutti i soldi per un terzo alla Chiesa Valdese e per due terzi alla Chiesa Cattolica. Sì. E questo è un palese imbroglio. Ecco, non vedo perché io dovevo ritenere che fosse un imbroglio per le chiese e non lo debba essere per i partiti. Quindi è un imbroglio questo del 2 per 1000. È un imbroglio abusato, mi fa specie però che ci se ne accorga soltanto quando si dà ai partiti. Non capisco perché. Ma no, la polemica c'è anche sull'8 per 1000. Mi segua. Fra le polemiche, che ce ne sono un milione in Italia, e fra le polemiche che portano a conclusioni c'è la sua differenza. Sui partiti se ne sono accorti subito, sulla Chiesa hanno tardato. Questo mi fa un po' riflettere di quanto siano pelose certe polemiche. Le polemiche. Comunque, insomma, avete capito, cari italiani, il 2 per 1000 vuol dire che se voi decidete di non dare il 2 per 1000 a nessuno, se stante questo disegno di legge venisse approvato, io per esempio decido di non dare il 2 per 1000 a nessun movimento politico, però in base a quelle che sono le proporzioni di quanto la gente decide il 2 per 1000, i miei soldi del 2 per 1000 vengono comunque distribuiti ai partiti. Misiani, questo se è così, perché i giornali sono orientati a spiegare che è così, e già Emma Bonino ha detto faremo un bel referendum noi dei radicali, lei che sta al governo, per abolire questo disegno di legge, questa è una truffa sul 2 per 1000, Misiani? Ma guardi, il meccanismo sembra somigliare più a quello dell'8 per 1000 che del 5 per 1000. Poi naturalmente c'è sempre un tasso di ipocrisia, come ricordava l'amico Bianconi, in queste polemiche, perché scattano subito nei confronti dei partiti, sì, e invece sono stranamente silenti nei confronti delle confessioni religiose. Io, se posso dire, se posso aggiungere un elemento, se c'è un pezzo che manca per quanto riguarda il 2 per 1000, è anche capire come possono essere utilizzate queste risorse, perché uno dei limiti di questo disegno di legge è che, per esempio, con il 2 per 1000 dice i cittadini possono decidere di dare dei soldi ai partiti, sì, ma per essere utilizzati come? E beh, ma chi se ne frega? Cioè, se no, adesso... ma come chi se ne frega? Sta scherzando, queste sono risorse pubbliche. Se c'è uno dei limiti dell'ordinamento è che una volta che questi soldi entravano nelle casse dei partiti, ognuno poteva fare quello che voleva. E beh, ma quello saranno una volta per tutte i partiti per dovranno possono essere utilizzati questi soldi. Ma certo, ma i partiti dovranno rendicontare, voglio dire, chiaro. Ma non che... è soltanto una questione di rendicontazione, è anche una questione di destinazione di queste risorse, di finalizzazione, per favorire la partecipazione dei cittadini, per fare attività politica. Secondo me questo è un altro limite di questa legge che andrebbe colmato. Poi io ho delle perplessità sul meccanismo del 2 per 1000. Guardi, io avrei fatto un meccanismo molto più semplice, avrei detassato quasi completamente le piccole donazioni. Ah, ecco. Partiti. C'è un disegno di legge di iniziativa popolare molto bello, presentato da Pellegrino Capaldo, firmato da 400.000 persone, sì, che dice le piccole donazioni fino a 2.000 euro sono detassate al 95%, poi sono i partiti che devono andare dai cittadini a raccogliere queste donazioni, mettendoci la faccia, senza automatismi, sì, stando sul territorio e andando a convincere fino al 95%, è interessante. Per le piccole, però, sì, certo, per le piccole donazioni fino a 2.000 euro. Che i partiti siano condizionati dai grandi donatori. Poi c'è un altro grande limite in questa riforma, non c'è un tetto massimo alle singole donazioni. Ma guardi, questi... di turno e ti dà 1 milione di euro, quello si compra il partito. Certo, ma questo infatti sono i due punti da cui voglio ripartire tra pochi minuti con i due tesorieri del PD Antonio Misiani e del PDL Maurizio Bianconi, è uno dei due tesorieri, perché questo è un altro punto interessante: la detassazione, la detrazione, la possibilità di detrarre. C'è questa proposta che diceva Misiani di Pellegrino Capaldo di detrarre fino al 95% per le piccole donazioni fino a 2000 euro, che vuol dire insomma che anche quello è un finanziamento pubblico al partito, nel senso che lo Stato evita di incassare il 95%, quasi tutto, certo, di piccole donazioni. Io faccio 10.000 donazioni da 2.000 euro, ma sono la stessa persona, magari posso aggirare comunque la legge. Ma un altro punto è le donazioni, mettere un tetto, se no arriva quello, il magnate, pensate a chi vi pare, che incassa 100 milioni di euro, li dà a un partito e così che fa? Si compra un partito in pratica, o comunque lo tiene sotto scacco. 24 mattino. Eccoci qui, allora siamo con Antonio Misiani, che è il tesoriere del PD, Maurizio Bianconi, tesoriere del Popolo della Libertà, parliamo del disegno di legge, il decreto legge, l'ipotesi di legge che vuole rimodulare, ecco, la uso anch'io il verbo che usano i politici quando aumentano le tasse, rimodulare il finanziamento ai partiti, ovviamente al ribasso, certo abolirlo no, forse nel 2018 si arriverà alla fine di questo regime, se verrà approvato ovviamente questa proposta di legge, e verrà sostituito con un finanziamento tramite il 2 per 1000, detassazioni sulle donazioni, spazi gratuiti in TV e in affitti di sale per i movimenti politici, ovviamente quelli che hanno uno statuto. Vorrei dare spazio a due ascoltatori, Italo dalla provincia di Savona. Italo, buongiorno. Buongiorno a voi, mi sentite? Beh no, la sentiamo come in una galleria. Dove sì? Sì, un po' meglio, Dick. Insomma, vabbè, ripristiniamo la linea. Antonino da Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Dica. La legge che si prospetta, che vorrebbero approvare, mi sembra che abbia un po' di incanni. Specialmente io sono per il finanziamento per il 2 per 1000. Per il 2 per 1000. O altrimenti fino a, come si diceva prima, una tassa, uno sgravio fino a una certa cifra non superiore ai 100 euro, tutti quelli superiori ai 100 euro, i partiti dovrebbero mettere nell'elenco, vedere chi dona, e poi il lettore giudica se quel partito fa qualche legge o qualche cosa per quella persona che magari ha donato, che se lo può permettere, sì, sì, 10.000 euro, il lettore può capire se il partito agevola determinate persone. Vabbè, insomma, ecco, lei dice le donazioni e poi il partito deve rendere trasparente e pubblico tutto quello che viene donato ai partiti. Grazie, vorrei andare da Stefano dalla provincia di Pisa, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io più che le modalità di finanziamento pubblico al partito vorrei porre l'attenzione su quello che è il cambio del senso delle parole. Si è cominciato con sprechi quando sono ruberie, perché quando si può sprecare il pane, invece di mangiarlo magari lo si getta, ma i soldi vanno sempre comunque in tasca a qualcuno, quindi è l'ora di finirla, di cambiare proprio il senso delle parole nella lingua italiana. Era questo, insomma, lei l'idea di leggere sprechi quando sono ruberie le dà fastidio. Grazie Stefano dalla provincia di Pisa. Torniamo da Biancone Misiani. Biancone, anche lei porrebbe un limite alle donazioni, perché il concetto è se uno ha 1 milione di euro, insomma, se no il solito concetto è non sia la politica solo per i ricchi. Vuol dare i soldi li dà, a me mi sembra di vivere nel paese delle meraviglie qui. Cioè, questo Presidente del Consiglio, al quale io ho molta fiducia, fa i tweet e dice abolito il e non aveva fatto niente. Poi presentano un disegno di legge che non abolisce niente. Poi tutti discutono sugli effetti annunci. La gente ha i colpi di fantasia e non si risolve mai il problema, qui è tutto in chiacchierare. Il problema è uno solo. Ci sono i partiti politici hanno un costo, basta sapere chi paga, perché paga, sì, e come paga, cosa che già si sa. Sì. Intervento dello Stato, lo si vuol fare per limitare la corruzione, per limitare tutta questa roba, lo si faccia, non lo si vuol fare, non si fa. Insomma, lei manterrebbe quindi il sistema attuale, mi pare di capire. Cioè... No, il sistema attuale non va bene, perché non va bene? Primo, perché non dà un introito certo ai partiti, cosa che la gente non sa. Io devo preparare, come Misiani, si deve preparare il budget entro il 31 dicembre l'anno prima, ma in realtà non sappiamo quanti soldi ci abbiamo. Ma perché? In che senso? Scusi, è in base a un euro a elettore? No, questo fa parte della disinformazia. No, che disinformazione. Sì, poi è stato dimezzato dal governo Monti, questo di colpo. No, questo sì, però... sempre fa parte anche questo della disinformazione. Se a un momento, sì, visto che io sono laico su questo, sì, argomento, sì, quindi vi dico come stanno le cose. Quello è il diciamo così, la base. Poi c'è un segreto sempre nelle leggi, in cui vengono dati i soldi secondo le possibilità del ministero competente, sì, il che vuol dire che il primo anno ce l'hanno chiamati il 10%, il secondo il 20%, il terzo il 30%, sì, e l'anno scorso poi per legge l'hanno dimezzato. La cifra è di per sé incerta, non è mai certa, perché viene determinato il tetto, ma non viene determinato quanto mi viene dato. Però mi scusi, quindi Biancone, non lo sa. No, ma certo, ma... Monti ha dimezzato, sì, ma quando ha dimezzato? Ha smezzato 10 giorni prima che me li dessero. Ah, quindi io avevo che lei già ha detto tutte le dovevo licenziare le persone, ha dovuto licenziare qualcuno nel frattempo. Ah, no, no, ancora non ho licenziato nessuno, nel senso che mi ha aiutato la Fornero, perché la Fornero ha fatto i contratti a progetto e i contratti a termine in maniera tale che neanche un pazzo li rinnova, quindi ci ha pensato la Fornero, cioè, li ha lasciati a casa a fare un'operazione che mi fa male lo stomaco. Beh, mi scusi, mi sta dicendo sfruttando la legge Fornero ha lasciato a casa quante persone? Non lo so quante, saranno 30-40, non ho che io li ho lasciati a casa, gli è finito il progetto. Beh, gli è finito il progetto, sì, però scusate, questo devo dire anche Misiani, anche lei nei giorni scorsi ha detto rischiano quante 180 persone. Sì, ma io non mi scusi, no, io non c'è no, una no, no, aspetti Biancone. No, aspetti Biancone. Misiani... Posso approfittare, sì, per precisare, sì, rispetto a quanto è stato riportato? Sì, certo, certo. Meno fantasioso. Io ho detto semplicemente due cose. Che se verrà approvata questa riforma si va verso una fase di totale incertezza sulle entrate verso le forze politiche, perché naturalmente c'è un elemento di libera scelta dei cittadini, che è un principio sacrosanto, che influirà molto. È molto probabile che ci sarà una drastica riduzione delle entrate delle forze politiche, che voi diciate abolito, non abolito e compagnia bella, perché comunque si andrà nella direzione di una drastica riduzione. È chiaro che questo non può non coinvolgere le strutture di ogni partito, compreso il Partito Democratico. Però, la seconda cosa che ho detto ai lavoratori del Partito Democratico è che qualunque intervento sarà necessario fare, esclusi i licenziamenti, perché io non ho l'ultima cosa che ho intenzione di fare è licenziare la gente, ma tutto il resto che sarà necessario, opportuno farlo, discuteremo assieme ai lavoratori, come si dovrebbe fare in ogni realtà lavorativa. Peraltro. Questo sì, però Misiani, mi scusi, è apparso a molti, a me compreso, una sorta di ricattone, cioè perché, voglio dire, la gente pensa, per essere un po'... No, però mi scusi, per essere... Devo raccontare la verità. Ma d'accordo, però onorevole Misiani, mi scusi, molti l'hanno vista così e hanno detto, ma come? Con tutte le inchieste sulle sprechi, o come diceva il nostro amico di Pisa, ruberie che si sono lette nelle regioni, ma prendete una qualsiasi regione nella quale tassatevi un 1% in più voi parlamentari e non togliete il posto di lavoro neanche a mezza persona che lavora magari a 1500 euro nelle strutture dei partiti. La gente ha reagito così, sa? Di informazione che pretendono dai partiti il dimagrimento, gli apparati devono essere smantellati, ma di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del lavoro delle persone. Quando io leggo il principale quotidiano italiano che dice il governo mette a dieta i partiti, ma secondo voi la dieta che cosa vuol dire? Ma la dieta vuol dire, guardi, che glielo dico io, secondo me nella vulgata delle persone la dieta è che si rubino meno cene nei consigli regionali e si diano quei soldi ai dipendenti dei partiti. I consigli regionali è un altro paio di maniche, stiamo parlando del finanziamento verso i partiti politici. Mettere i partiti a dieta vuol dire inevitabilmente che questa cosa impatta anche le persone che nei partiti lavorano, se no ci prendiamo in giro e non facciamo gli ipocriti, per favore. Io non posso fare l'ipocrita con chi lavora nel Partito Democratico. Va bene, e allora... Poi l'ultima cosa che farò è licenziare, sia chiaro, e tutto quello che sarà da fare lo decideremo insieme ai lavoratori e ai loro rappresentanti, però per favore non facciamo i sepolchi imbiancati e diciamo le cose come stanno, altrimenti si prendono in giro i cittadini. Ma anche se ci sono, io se ho ci sono le ragioni della riforma con i lavoratori, perché ripeto, per me la riforma è necessaria, d'accordo, però onorevole, lo devono sapere tutti quelli che sono, va bene, ma si troverà una formula più di equilibrio. Se ci sono dipendenti del Partito Democratico, ci saranno, che guadagnano 6-7 mila euro al mese, ne guadagneranno 5 mila e con quei soldi si daranno, con il principio dei vasi comunicanti, si salveranno i posti di lavoro anche a quelli che ne guadagnano 1000 o sono a progetto. Non lo so, immagino possa essere una soluzione. Ci sono meno soldi a casa, io faccio così. Vabbè, andavamo 3 volte a mangiare la pizza, andiamo 2 volte a mangiare la pizza perché possiamo andare 1 volta in più al cinema. Potrebbe essere una soluzione, visto che nessuno chiude i rubinetti a zero di colpo. Eccoci qui. Allora andrei da Michele, dalla provincia di Napoli. Buongiorno Michele. Buongiorno. Io ho sentito anche l'intervento dell'onorevole Misiani, mi sembra veramente molto accalorato per questa perdita di posti di lavoro. Beh, avrei gradito che ci fosse stato lo stesso animus anche verso i centinaia di migliaia di posti di lavoro perduti. Per la verità, mi scusi Michele, ha detto farò di tutto e l'ultima cosa che voglio fare è licenziare. Troveremo. Un fatto soltanto. Come mai, quando si è trattato di imporre qualcosa ai cittadini, si è fatto strame anche del diritto facendo provvedimenti retroattivi, guardiamo la riforma delle pensioni o quant'altro, adesso che si è dato il finanziamento pubblico dobbiamo andarci piano, lo spalmiamo su 4 anni eccetera eccetera, ma tutto questo calore verso i dipendenti dei partiti politici forse potrebbe anche essere dato dal fatto che vorrei sapere chi sono i dipendenti. A me sembra, non so, posso anche sbagliarmi, che la povera Livia Turco, che era rimasta senza una sedia, è stata assunta dalla parte della PD. Guardi, intanto non avrà lo stipendio. Guardi, i dipendenti sono persone che vanno avanti le sezioni, i segretari, persone che fanno le pulizie sono le persone che lavorano concrete, che hanno delle facce. Non guardi solo ai politici, a Livia Turco. I dipendenti sono persone anche che aprono le sedi di sezione al mattino, stanno lì, inviano i comunicati stampa, fanno le segretarie, i segretari, cioè sono persone che guadagnano magari 1500 euro al mese. Michele, sono questi i dipendenti, quelli che rischiano di più, tra l'altro. Paolo da Piacenza, buongiorno. Sì, buongiorno Milan. Guardi, io non sono un populista né un demagogo, però sì. Sono perché il finanziamento sia dato, il 2 per 1000, su base però volontaria, non truffaldinamente come la Chiesa, e al massimo un tetto di 500.000 euro, è tutto trasparente, online, come in America. Per cui non facciamo i populisti e i cretini che non serve i soldi servono, dipende che uso se ne fa dei soldi, punto, signor Milan. Va bene, grazie, grazie, mi ha dato tra le righe anche del cretino, ma va bene così. Allora Bianconi, ma questi del Movimento 5 Stelle allora chi sono, dei matti scatenati che loro dicono si può fare senza soldi? Dottore, io sa che non partecipo volentieri alle trasmissioni dalla radio, lei ce l'ha volentieri perché lei è sempre obiettivo, sì. Però mi pare che abbia fatto un discorso prima che una precisazione la richiede. Dica. Quello che prendono i gruppi parlamentari è del tutto indipendente ed estraneo a quello che serve al finanziamento. Sì, perché dipende dal Parlamento. Perché quello dei gruppi sia regionali che parlamentari, sì. I quali non danno una lira, e c'è una disposizione di legge, una delle pochissime direi, che è indefettibilmente osservata. Sono campi e compartimenti stagni completamente separati. L'unico problema che ci sono stati sui partiti, dopo tanti tesorieri e tanti partiti, parlo da dopo Tangentopoli, abbiamo avuto soltanto quello della Lega Nord, perché gli altri tesorieri erano tutti tesorieri, quelli che hanno avuto problemi, non Fiorito che non c'entra niente, no, okay. Ma io penso a Lusi, di partiti morti, si sono divisi il bottino a partiti morti. I partiti vivi, invece, i soldi, cercano di utilizzarli al meglio. Sprecheranno, probabilmente sprecano, nel senso che se io oggi ordino 10.000 bandiere per il mio partito e fra una settimana ho le elezioni, sicuramente invece di pagarlo un euro ne pago 4. Perfetto. Ma non ci sono ruberie. No, ma io non è che dico ruberie, però... Sprechi e ruberie. Di questo si tratta di una somma che serve per mandare avanti un'attività. Ho capito, politica. Però mi scusi, avrà letto come fa 5 Stelle? Intanto vuoi vedere quanta pubblicità prende con quel blog. Prendere pubblicità vuol dire che... No, è perché sono soldi. Secondo, fatelo anche voi. Che è organizzato diversamente, perché non ha sedi. E noi abbiamo sedi, ora non li abbiamo più perché le abbiamo disdettate tutte, ma abbiamo avuto un partito, prima accusavano il PDL di essere un partito di plastica, abbiamo cercato di dargli gambe e strutture, non abbiamo comprato immobili, abbiamo preso gli altri sedi in affitto e li abbiamo disdettate. Quindi ci sono dei costi, però mi scusi, lui non ha sedi. Onorevole Bianconi, però mi scusi, anche lei ieri avrà letto Sergio Rizzo sul Corriere della Sera, quando si parla di... Sì, con molta pena, come in genere faccio, per chi non so quanto prende di stipendio e ammannisce le c'è una destra manca per il giornale dei vabbè, d'Italia. Io Rizzo per me è uno dei mali d'Italia. Altro che Grillo. No, come Rizzo uno dei mali d'Italia? Sono due tumori di questo paese. Mi ha nominato una delle persone che mi sta più antipatica al mondo. Non dica così. Rizzo e Stella, due tumori del paese. Mica l'ho offeso. È dannoso all'Italia e alla democrazia. Due tumori, non è una bella... Sono due tumori della democrazia. Se mi querelano, poi glielo dimostro perché. Vabbè, comunque Sergio Rizzo ieri ha scritto che i rimborsi sono arrivati a questo. Nel 2001 spese accertate dei partiti 49 milioni di euro, spese invece di rimborsi ottenuti 476 milioni, cioè il 959% in più. Anche qui fa confusione Rizzo, perché Rizzo fa la confusione con quella legge lì, non fa confusione, è tutto dovuto. Fra quello che è stato speso per le campagne elettorali e con quello che è stato speso per il mantenimento. Dal troppo siamo andati al niente, perché ci sono dei partiti che hanno accantonato soldi come Di Pietro e ci si sono comprati gli immobili, ma anche gli immobili per il partito. Mannaggia, anche qui non c'è Di Pietro. Bianconi si assume tutte. No, ma lei Bianconi si assume tutte le responsabilità di quello che fa. Però dai, lo ritiri di Stella e Rizzo, è brutto, due tumori dell'Italia. Non io è possibile. Ho avuto una bruttissima esperienza con queste persone. Sì, ma lasci perdere. Però c'è una legge per diminuire i costi, fui messo nel Corriere della Sera perché secondo loro li aumentava, gli mandai una lettera nella quale spiegavo come stavano le cose, loro si sono ben guardati a pubblicarla. Ma cosa devo dire io di gente così? Vabbè. Misiani, per concludere, anche lei, Beppe Grillo, che è? Sono hanno trovato un modo, ho detto che fare pubblicità e raccogliere soldi con la pubblicità non è vietato per legge, quindi se mai uno se è bravo a fare la pubblicità. No, ma sai qual è il problema, sì. Dottore? Il problema non è no, raccogliere pubblicità, ci mancherebbe, il problema è che quella pubblicità non va nel Movimento 5 Stelle, rimane nelle tasche di Casaleggio e di Grillo, come loro stessi hanno ammesso dopo la puntata della Gabanelli. A maggior ragione fanno politica senza soldi. Le feste dell'unità, se li fosse tenuti Berlinguer e non fossero andati a finanziare il partito, è una cosa, se permetto, ancora più grave. Però come fanno a fare soldi, a fare politica senza soldi? Infatti qualche problema ce l'hanno, se dopo le ultime elezioni amministrative hanno fatto il piagnisteo, non abbiamo spazio in televisione, non abbiamo i soldi come le altre forze politiche. Il 5 Stelle sta atterrando nella realtà. La realtà è che la politica costa, per fare politica servono risorse, le risorse vanno reperite in modo trasparente, tracciabile. Ci deve essere però una base pubblica, diretta o indiretta, poi vediamo come, che garantisca un minimo di parità di condizioni, altrimenti andiamo verso il far west. Vabbè, comunque staremo a vedere questo disegno di legge. Io intanto ringrazio i due tesorieri, Antonio Misiani del Partito Democratico e Maurizio Bianconi del Popolo della Libertà. Che dire, ci fermiamo qui, potete riascoltare tutto sul sito di radio24.it e se prendete carta e penna oggi vi diamo anche il numero della nostra segreteria telefonica. A domani! Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 24 Mattino.